Come,

nome. Non lamento. Vicino provo, forza ti cerca. Cerca. Cerca. Cerca. Cerca. Cerca. Cerca. Cerca. Dall'una all'altra stanza lo cercano. Prendetelo. L'ombre si sono riunite. L'ho preso. Signora. La rivedo. Dove? Porto. Uccidito! Thank you. Thank you. addio, addio. Thank you. ancora. giunto appena di Russia gli recava una lettera del fratel Valeriano. Del fratello anche lui? Valeriano? Null'altro? Nulla. Oh, la prova suprema! La confessione sua! Confessa il suo delitto! Confessa! Finalmente! Inseguo, la donna vacilla, balletta, confessa, mi mando un biglietto, ricordati mio. Io salgo, è uscito, il servo mi lascia un istante, io porro il tiretto, e trovo... E dice, ti attendo stasera alle 9. addio. Signore! Addio, a domani! Dove ti fai? In caso è tardi. Da partire! Per me! Le spie che ti cercano! Io mi detengo! Una visita? Io scappo. E dove vai? Alla posta. Attendo alcune lettere direttami a Parigi. Loris, ritorna presto. Subito. Arrivederci. All'albergo d'Inghilterra, vado a parlar di voi, salgo il biciclo, ecco, mi cerco, trovo, ed eccomi. Siete molto gentile, un fior di cortesia. Non son venuto qui per lei. Per voi. felice. Come non so. Ebbene, io vengo a risvegliarvi. Con te mi fate quasi paura. Quel truce scherro. Assassino di Vladimiro, egli è gettato nella fortezza e lo sollaneva ed una notte per improvviso crescer del fiume. Thank you. mia madre, muto è il fratello. Ecco un dispaccio, è di mio fratello al cerco. No, di Borov. Hai la grazia! La tua grazia! Figlia mia! Abbia a cantare, a mamma, a bella, a dolce casa abbandonata, abbia! Mi saluto, mi è concesso al dire, e tu mi seguirai, ma che d'ora mi abbuffati nella sorte ancor di vivo farò fieri a Parigi oggi stesso chi sarà forse giunto mai smemorato mi scordavo delle lettere precedente questa lettera il dispaccio Chiarischin recò all'imperatore la prova trionfal del tuo delitto la confessione tua stessa insieme al nome dei complici i miei complici chi sono? Valeriano, mio fratello, lui, o quale infamia? Quella lettera è scritta da una rossa dimorante a Parigi, segnò col nome di battesimo, ma la scopriremo, dire che era la lettera. Conoscerò la mia nemica al fin. Iariskin, resto comandò di tuo fratello, Valeriano restato. La fortezza, il fossato, nella notte affogata. Mia madre, madre mia, morti per me, morti innocenti, e quella donna, la maledetta schia che mi segue sempre ovunque, ma la brema colei anch'io! Perché fedora da me ti scosti? Sciagurata, perdutamente le avevan fatto mia madre e mia fratella. Forse non te li piange, forse per essi è piena nella sua cena. Thank you. 这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科·费比沃、高比·卡夫契利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.